La situazione politica in Francia resta estremamente instabile, è una caratteristica al quale il sistema istituzionale e politico francese non è abituato. Come dicevamo qualche mese fa, dopo le elezioni europee e dopo le elezioni per il Parlamento francese, per l'Assemblea nazionale, il sistema francese finora è stato estremamente solido, determinato da un presidente eletto direttamente e praticamente inamovibile, e da un Parlamento eletto, tramite il maggioritario a doppio turno, cosa che ha garantito fino a questo momento maggioranze ampie e stabili, al contrario di quello che avveniva in altri paesi, come per esempio l'Italia, dove sappiamo una delle critiche che si sente fare più spesso è l'instabilità su governi che sono succeduti. Bene, questo non è mai avvenuto in Francia. Quello a cui assistiamo in questi ultimi mesi è un processo di instabilità continuo che sta mettendo a dura prova e probabilmente mettendo fine alla Quinta Repubblica, cioè a quella Repubblica pensata da De Gaulle per dare una stabilità politica alla Francia, ma che nel momento in cui il sistema politico diventa composto da tre grandi partiti e non da due come avveniva prima, c'era la sinistra fino a un certo momento guidata dal Partito Comunista, poi il Partito Socialista diventa il principale ma resta un blocco più o meno coeso e una destra che era guidata dal Partito Gaullista e dai suoi eredi. Oggi non è più così e lo si vede nell'instabilità permanente che colpisce la Francia. Quello che avviene in questi giorni, per tornare un attimo alla cronaca, è una mozione di sfiducia contro il governo attuale, quindi il governo, non il presidente, che impone una manovra economica, per tradurlo in termini italiani, senza il voto del Parlamento. La Costituzione prevede che se il Parlamento non giunga su qualsiasi legge, come abbiamo visto anche sulla riforma delle pensioni, non giunga in un tempo ragionevole a un accordo tra le due Camere, il governo possa imporre una legge senza passare dal voto del Parlamento. A quel punto però i parlamentari possono chiedere un voto di fiducia, sempre per tradurlo in termini italiani, che può portare, se non passa, alla caduta del governo. Un evento piuttosto eccezionale perché tendenzialmente i parlamentari temono di far cadere il governo in carica, ma non è il caso questa volta perché il governo in carica ha un sostegno parlamentare di più o meno un terzo, diciamo i centristi e la destra repubblicana, e ha contro di sé più o meno i due terzi del Parlamento, cioè la sinistra di Mélenchon, comunisti, socialisti e verdi, e la destra del Rassemblement National di Marine Le Pen e Bardella. Questo evento eccezionale non porta necessariamente a le dimissioni di Macron, anche se, e questo è un evento notevole, da diversi giorni se ne parla, per non dire da diverse settimane. La ragione è semplice, diciamo, ci sono due ragioni a mio parere. La prima è che c'è un Parlamento effettivamente in cui è impossibile o molto difficile trovare una maggioranza. Già dopo le elezioni di luglio Macron ha dovuto prendersi 2 mesi per trovare un nome che, come vediamo, non è sufficiente per mantenere una stabilità parlamentare e dare un governo alla nazione. Una volta che questo, dopo appena 2 mesi, dopo appena 2 mesi che è in carica, viene sfiduciato dal Parlamento, in più con una manovra economica che non viene approvata, e quindi si va più o meno, per tradurlo sempre in termini italiani, all'esercizio provvisorio, con una grande quantità di ipotesi che fanno i costituzionalisti su questo punto. Ecco, che cosa potrà fare Macron? Altri 2 mesi senza governo per trovare un altro nome che non si sa quanto durerà, perché tanto fino a giugno non può sciogliere le Camere e non si può eleggere un nuovo Parlamento, quindi la maggioranza parlamentare fino a giugno rimarrà questa. Per questo si pensa che per sbloccare questa impasse parlamentare, questa impasse istituzionale in Francia, ormai insistentemente si parla di dimissioni di Macron che porterebbero ad elezioni presidenziali ma non ad elezioni parlamentari, quindi il Parlamento resterebbe quello. Perché si parla tanto di questo? Innanzitutto ci sono già candidature che sono uscite, da quella di Mélenchon che si era proposto ad altre, ma perché se ne parla così tanto? A mio parere non si può dimenticare il contesto storico in cui stiamo vivendo, cioè quello di una guerra, come diceva il Papa una decina d'anni fa, capitoli, però sono capitoli che stanno riunendosi sempre di più verso un unico libro, e cioè l'impressione che le sconfitte degli ucraini contro la Russia, quello che avviene in Medio Oriente, quello che abbiamo visto ieri in Corea, portino verso un possibile impiego diretto di truppe occidentali in qualcuno di questi scenari. E però per fare questo ci vogliono governi ben saldi, e non può essere un presidente traballante come Macron, con un governo più o meno che sta unito, diciamo, con lo scotch, a portare il peso politico di un intervento come questo. Un po' come avvenne per il Prodi 1 nel 90, 98, quando la Rifondazione Comunista teneva il governo Prodi attaccato, diciamo, teneva in piedi il governo Prodi con i propri voti. Il governo, certo, storicamente cadde sulla proposta di 35 ore di Bertinotti, però poi apprendemmo qualche mese dopo che si stava già preparando la guerra in Jugoslavia e che il governo Prodi non era ritenuto ritenuto sufficientemente forte e stabile e politicamente forte per sostenere un impegno come quello. Ecco, io temo che le dimissioni di Macron, che non sono assolutamente richieste dalla Costituzione e che non sono necessarie, lui potrebbe da un punto di vista politico-istituzionale arrivare fino alla fine del suo mandato nel 2027, se se ne parla insistentemente bisogna cercare delle ragioni politiche. Quelle che io vedo sono queste.